got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena, prima puntata del 2015, quindi auguri a tutti quanti. Stasera è una cena italo-iraniana, vi portiamo in atmosfere persiane perché vogliamo parlare di attualità con un professore italo-iraniano che ci racconterà qualcosa della comunità iraniana in Italia, quasi 10.000 persone nel 2015, come si è formata, come si è venuta a creare, ma anche di quello che sta accadendo, dell'attualità, perché l'avrete letto sui giornali, l'avrete ascoltato anche a Radio 24, l'Arabia Saudita una settimana fa circa ha deciso di portare avanti un'esecuzione, l'esecuzione di un religioso sciita al Nimr, che ha scatenato le proteste del mondo musulmano sciita. Dall'Iran al Libano, al Bahrain e allo Yemen, nel mondo musulmano sciita si sono moltiplicate le proteste contro l'Arabia Saudita. Teheran e Riyadh sono da tempo potenze rivali, ma l'esecuzione del religioso sciita Nimr al-Nimr, sabato, ha suscitato un nuovo astio e potrebbe accentuare l'instabilità nella regione, aggravando la contrapposizione tra sunniti e sciiti. Gli sciiti rappresentano all'incirca il 10% dei musulmani nel loro complesso. La popolazione più numerosa vive in Iran, questa comunità è maggioritaria anche in Iraq e nel Bahrain, e ha una presenza rilevante in Kuwait, Yemen, Libano e Qatar. Lo sceicco Nimr al-Nimr esigeva la caduta della famiglia reale saudita, ma esortava i propri seguaci a non utilizzare la violenza. La sua esecuzione è il simbolo della linea dura dei sauditi nei confronti del dissenso interno e dell'influenza iraniana nella regione. Mentre l'Iran è il leader del mondo sciita, l'Arabia Saudita è la potenza più influente di quello sunnita, comunità maggioritaria in Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Siria e Qatar. Principale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha ricevuto consistenti aiuti militari da Washington e ha influenzato per lungo tempo la politica estera statunitense. L'equilibrio di poteri è cambiato l'anno scorso con l'accordo sul nucleare iraniano. I sauditi ora temono che Teheran utilizzi decine di miliardi di dollari dallo sblocco di beni congelati e le nuove opportunità commerciali per sostenere i gruppi ribelli sciiti, destabilizzare governi a guida sunnita e comprare armi per espandersi. L'Iran appoggia già le milizie sciite in Iraq e quelle che in Siria sostengono Bashar al-Assad. Teheran aiuta anche i ribelli Houthi nello Yemen, diventato uno degli esempi più vicini delle guerre per procura tra Arabia Saudita e Iran. Riyadh guida una coalizione araba contro gli insorti sciiti che hanno occupato la capitale Sana'a e altre regioni del paese. In Siria l'Arabia Saudita, come gli Stati Uniti e la Turchia, sostiene i ribelli sunniti che combattono contro il regime di Assad. Ma Riyadh è anche accusata di finanziare di nascosto gli estremisti dell'ISIL. L'esecuzione di al-Nimr rischia di complicare ulteriormente un quadro geopolitico già intricato. La tensione quindi è alta in Medio Oriente e noi ne parliamo di questa tensione latente, di questa guerra fredda fra Iran e Arabia Saudita con un professore proprio di politica internazionale alla John Cabot University di Roma e anche alla London School of Economics, il professore di origini iraniane Peshman Abdolmohammadi. Io sono di origine chiaramente iraniana, sono nato in Italia, quindi sono metà metà in realtà, però di certo sono iraniano. Ho fatto i primi 9 anni in Italia e dai 9 ai 19 in Iran. La definizione diciamo molto più cosa è italo-persiano. Italo-persiano perché chiaramente è la cultura che dà l'identità, no? Quindi la Persia diciamo, no? Sì, assolutamente. E insegna alla John Cabot University. Sì, politica internazionale del Medio Oriente alla John Cabot University e adesso sono visiting researcher alla London School of Economics, quindi mi muovo tra Roma e Londra diciamo. Lei innanzitutto è preoccupato per lo scenario che si va creando? Sì, devo dire che già 2 o 3 giorni fa la mia preoccupazione non era così alta, adesso devo dire che parzialmente inizio a essere più preoccupato, perché comunque l'equilibrio di potenza in Medio Oriente è molto fragile e questa nuova, diciamo, questo atto dell'Arabia Saudita, dell'esecuzione e di conseguenza poi la reazione della Repubblica Islamica dell'Iran, entrambe portano a un'escalation di tensioni in Medio Oriente che di certo il minimo che può fare è aumentare quello che è già in corso, ma può creare anche nuovi fronti di conflitto. Al momento ancora possiamo dire per procura o diciamo una guerra tra virgolette ormai fredda tra Riyadh e Teheran, e questi fronti nello Yemen, in Siria e in parte in Iraq possono avere un aumento di tensione, ma con nuovi fronti, io per esempio penso al Libano, il Libano è un fronte che può subire in modo diciamo parallelo da questa nuova, diciamo, tensione tra Iran e Arabia Saudita, perché il Libano è sotto l'influenza saudita nella parte nord e una parte di Beirut ed è sotto influenza persiana nella parte sud del Libano e una parte di Beirut. Quindi il Libano potrebbe essere un nuovo, ahimè, un potenziale conflitto, diciamo, futuro se le cose continuano. Non credo che, almeno nei tempi brevi o immediati, ci possa essere un conflitto aperto tra i due protagonisti regionali, l'Arabia Saudita e l'Iran, ma se le cose dovessero aggravarsi, anche questo non è da escludere. L'impressione che si ha è che l'uccisione dello sceicco da cui sono nate le proteste e si è alzata la tensione sia stata una provocazione di un regno saudita che si vede un po' più isolato, incerto dello storico alleato statunitense. È quello che anche voi come studiosi pensate? Sì, nel senso che dopo il 1979 l'Iran dello Shah, che era un attore importante in Medio Oriente ed era schierato con gli Stati Uniti, con la caduta dello Shah di Persia e l'arrivo della Repubblica Islamica e dell'ondata khomeinista in Iran, l'Iran non diventa più e non è più dal 79 fino ad oggi diciamo un alleato occidentale, e questo chiaramente ha dato ai sauditi in questi 36 anni la fortuna e la possibilità di diventare un attore molto importante come, diciamo, paladino degli Stati Uniti, amico dell'Occidente in Medio Oriente. Ma adesso le cose iniziano a cambiare, ormai da un anno, due anni, l'Iran sta ritornando sulla scena politica medio orientale in modo protagonista e diventando di nuovo, anche se secondo me ancora è molto graduale, un processo che può durare 15 anni, ma è sulla via di ritornare a essere anche più vicino all'Occidente. Poi questo non si sa se lo riuscirà a fare sotto la Repubblica Islamica o addirittura superando quella, ma l'Iran come proprio attore geopolitico sta ritornando sulla scena politica e questo preoccupa gli attori regionali che hanno goduto dell'emarginazione dell'Iran in questi 30 anni, che il principale è l'Arabia Saudita e il secondo è la Turchia, anche la Turchia. Tant'è che pochi giorni fa la Turchia e l'Arabia Saudita hanno fatto anche un'alleanza strategica, perché si sentono minacciati dal ritorno dell'elemento persiano. Sdoganando l'Iran con questo appunto accordo di Vienna, secondo lei il presidente Obama aveva calcolato che ci sarebbe potuta essere questa escalation? E secondo me, direi prima di rispondere in modo diretto a questa domanda, secondo me il presidente Obama e l'amministrazione Obama è stata un'amministrazione a mio avviso molto miope, poco efficace sul piano della politica estera, penso che sia stato molto efficace magari nella politica interna, ma nella politica estera ha fatto delle scelte che non sono state lungimiranti. L'equilibrio di potenza in Medio Oriente, non solo in questo caso diciamo da Iran e Arabia Saudita, ma in generale ha subito una forte, diciamo, un forte danno in questo momento. E di certo però, se parliamo dell'avvicinamento, andando alla sua domanda, dell'Iran e degli Stati Uniti col nuclear deal, di certo questo comunque è una mossa che prima o poi gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare, sia sotto l'amministrazione repubblicana che democratica, perché lei sa meglio di me che l'equilibrio di potenza è una questione molto importante, non si poteva più continuare a essere in modo unilaterale vicini ai sauditi o comunque ai paesi arabi del Golfo Persico, ma bisognava anche iniziare un po' a cambiare questo equilibrio, prima o poi si doveva fare questa cosa. E è toccato a Obama farlo per una questione di coincidenza anche, ma anche per una questione di scelta politica. Questa è comunque una direzione che creerà questi disagi, ma d'altronde non si può non ignorare che l'Arabia Saudita, come il Qatar, il Kuwait e importanti paesi arabi del Golfo Persico, amici e sostenuti dall'Occidente in questi 37 anni, sono tra i principali violatori dei diritti umani. Questa è una contraddizione che gli Stati Uniti prima o poi dovevano e devono far fronte. In tutto questo, l'Europa secondo lei come si colloca? Che posizione ha e cosa dovrebbe dire o fare? L'Europa purtroppo è in questo momento un attore globale debole, non ha una forte capacità di intervento diplomatico e strategico, ma avrebbe una potenzialità enorme dal momento in cui sia l'Iran, soprattutto l'Iran forse, vede nell'Europa un mediatore o comunque un attore globale importante, un mediatore anche importante per arrivare agli Stati Uniti, e quindi l'Europa potrebbe esercitare un ruolo più significativo, in parte lo ha esercitato durante il nuclear deal, ma questo ruolo deve essere potenziato, bisognerebbe che l'Europa aumenti la sua policy verso il Medio Oriente in modo accentuato, aumenti gli esperti, le capacità, l'expertise, che in questo momento sono molto carenti, e chiaramente la mancanza di una politica estera comune è un danno, è alla politica difensiva comune, un danno che comunque dal punto di vista strutturale l'Europa soffre. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con voi di quello che sta accadendo in Medio Oriente tra pochissimo. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Stasera atmosfera persiana per la nostra intervista con il professore italo-iraniano, il professor Peshman Abdolmohammadi, che ci sta raccontando come si può uscire, se si può uscire, dalla tensione che si è venuta a creare tra l'Arabia Saudita e l'Iran. Questo che stiamo vedendo adesso tra Iran e Arabia Saudita è il conflitto madre. Io continuavo a dire anche molti mesi fa, ma forse anche qualche anno fa, che il vero conflitto non è, o il vero diciamo punto critico del Medio Oriente, non è, perché si continuava a dire, se si ricorda, Iran-Israele. Invece i veri due competitor veramente importanti e pericolosi nel caso in cui dovessero venire a essere ricordi sono Iran e Arabia Saudita. E oggi stiamo molto vicini a quello. Se dovesse questa cosa latente diventare più diciamo pericolosa, questo avrebbe delle influenze e delle conseguenze estremamente negative sia per il Medio Oriente ma sia per il Mediterraneo, e di certo l'Europa non ne sarà immune. Chi era al-Nimr? Era uno sceicco terrorista o un religioso pacifista? Ma lui era sicuramente una figura vivace, frizzante, religiosa e clericale, perché ricordiamoci che il mondo sciita è un mondo che esprime un clero, ma il mondo sunnita non lo esprime, e quindi era una figura molto vivace, molto forte, e chiaramente una figura che aveva la possibilità di comunicare con la massa sciita dentro l'Arabia Saudita. E questo di certo era scomodo al potere saudita. Era, possiamo dire, una figura che avrebbe potuto portare con sé delle masse anche in piazza, poteva diventare una minaccia per la stabilità dell'Arabia Saudita, ma in quel momento non lo era ancora diventato. Ecco, quindi era una figura che poteva diventare in effetti una minaccia alla sicurezza saudita se rimaneva libero di esercitare la sua opinione, ma che a un certo punto è stato poi arrestato e poi condannato e così via. Ma diciamo che la sua esecuzione e la sua figura è una figura che rappresenta questa minoranza sciita nello Stato saudita, che è chiaramente una minoranza completamente repressa, completamente circoscritta e limitata. Ma questo comunque va sottolineato che c'è anche una minoranza sunnita, arabo sunnita piccola, che dentro l'Iran, che anche quella comunque è ben limitata. Quindi lì c'è un gioco delle parti, no? I sauditi reprimono o mettono sotto controllo forte gli sciiti, la loro minoranza, che è una minoranza più cospicua e importante, mentre i persiani, l'Iran, la Repubblica Islamica in questo caso, che ha lo sciismo come elemento principale e non l'elemento persiano, questo è importante, quindi usa lo sciismo come ideologia politica e tiene sotto controllo la parte sunnita. Però la parte sunnita è molto larga in Iran, ma la parte sunnita di etnia araba è piccola, sono pochi percentuali, che anche loro, guarda caso, sono nel Khuzestan, che è la zona petrolifera importante. Anche gli sciiti in Arabia Saudita sono nella parte east dell'Arabia Saudita, che è la parte petrolifera importante. Quindi, oltre a un conflitto religioso, quindi un conflitto economico-geopolitico. Infatti, al di là di questo storico conflitto, si parla però anche di interessi legati al petrolio e in particolare al calo del prezzo del petrolio, no? Quindi un'Arabia Saudita un po' più in difficoltà. Assolutamente, l'Arabia Saudita è in discesa, questo è un dato di fatto. Cioè, diciamo, il periodo del loro dominio, tra virgolette, economico e in parte geopolitico sta arrivando a un tramonto abbastanza puntuale. Questo ne sono certi i sauditi, hanno cercato e stanno cercando di ammorbidire, per esempio, se si ricorda poche settimane fa hanno concesso questo diritto, seppur molto limitato, al voto femminile, e hanno fatto questo attacco contro appunto questa esecuzione di questi terroristi o di questi attivisti sciiti, e con queste 47 esecuzioni, quindi sta facendo dei movimenti l'Arabia Saudita per salvaguardarsi in qualche modo e salvare o comunque frenare, porre un freno alla sua discesa. Però pare, almeno sul piano di analista, che l'Arabia Saudita è in discesa e l'Iran è in ascesa, è in ritorno. Quindi c'è un cambio di ruolo, ma che però potrà durare 20 anni, ecco, non è di oggi. Però questo cambio di ruolo nella regione potrebbe creare dei grandi, grandi problemi, come lo sta già creando. Yemen, Siria, Bahrain, ricordiamoci, maggioranza sciita in Bahrain, sostenuta, aiutata dalla Repubblica Islamica dell'Iran e repressa e contenuta dai sauditi tramite l'Emirato del Bahrain. E se quello scoppia, scoppia tutto. Quindi è un grande pericolo. L'area del Golfo Persico in questo momento è molto infiammata. Thank you. Stati Uniti ci hanno abituato a pensare all'Iran come il grande Satana, no? Si è arrivati a questo accordo. Chi è l'Iran oggi? Ma guardi, l'Iran è una realtà molto complessa, non è per nulla un monolite. Si può sicuramente in modo molto veloce suddividere nella parte istituzionale e nella parte sociale. Dal punto di vista istituzionale, la Repubblica Islamica è un regime politico molto particolare, è un regime che noi abbiamo definito, anche in un lavoro che abbiamo da poco fatto, un regime ibrido, vuol dire che non è né un autoritarismo puro e né di certo una democrazia. Quindi è un sistema ibrido, ha elementi fortemente autoritari, ma anche elementi limitatamente rappresentativi. Quindi è un sistema istituzionale molto più evoluto e articolato dell'Arabia Saudita. Però poi l'Iran ha anche un'altra cosa importante che non c'entra con il regime politico al potere della Repubblica Islamica, ma c'entra con la società civile. L'Iran negli ultimi 37 anni ha sviluppato la società civile più laica del Medio Oriente, proprio per una questione di controtendenza al regime politico che era teologico-religioso. Quindi l'Iran oggi ha anche un potenziale di progresso importante, fatto di giovani, circa il 70% dei persiani sono sotto i 40 anni, su una popolazione di 80 milioni. È una popolazione giovane, molto vicina a una opinione molto diversa da quella che invece è in corso adesso nel Medio Oriente, cioè una gioventù che ha chiesto diverse volte la separazione della religione dalla politica, vuole la modernità piena, cioè molto attiva e frizzante. Chiaramente dentro il regime della Repubblica Islamica, quindi non trova tanti elementi di sbocco, però potenzialmente l'Iran, sia sul piano istituzionale, sia sul piano sociale e poi sul piano economico, ha una potenzialità economica inesplorata, enorme, è un attore che nei prossimi 15-20 anni, per forza di cose anche demografiche, diventerà protagonista. E quindi l'Iran è un elemento da considerare ormai, ma come si vede e si inizia già ad avere conto di questo. Esiste una comunità iraniana in Italia e da chi è formata? Sì, esiste una comunità iraniana in Italia, non è numerosissima come può essere quella della Gran Bretagna, della Germania o della Svezia, per l'Europa diciamo, ma è una comunità abbastanza consistente. La maggior parte sono appunto medici, ingegneri, architetti, cioè più dal punto di vista... sono venuti qua a studiare la maggior parte, poi abbiamo tanti commercianti a partire dai famosi tappeti persiani ad altre cose e poi chiaramente abbiamo anche tanti studenti, quindi anche perché una delle vie più fattibili per gli studenti iraniani per poter uscire, perché ricordiamoci che prendere un visto in Iran e venire in Europa, anche in Italia, è una impresa molto difficile, basti che lei vada o andate davanti alle ambasciate europee a Teheran e lì vediamo un grande discrimine e difficoltà a poter avere accesso ai visti. Però l'Italia è una delle realtà che almeno sul piano dello studio rende un po' più fattibile la cosa, quindi molti studenti iraniani vengono in Italia a studiare, quindi sì, studenti, liberi professionisti, imprenditori e tanti medici e ingegneri, la maggior parte. Poi c'è anche una parte di rifugiati politici, ma quella dei rifugiati politici, la maggior parte è quella della generazione precedente, quella dell'epoca della rivoluzione. Oggi la maggior parte non sono molti rifugiati politici, la maggior parte sono studiosi o studenti o questo tipo di persone. Thank you. Grazie professore Peyman Abdol Mohammadi per essere stato con noi questa sera, e restiamo in temi di attualità perché abbiamo avuto l'occasione di intervistare Christopher Hain, che è il portavoce del Comitato Rifugiati in Italia, e con lui abbiamo parlato della decisione da parte di Svezia e Danimarca di ripristinare i controlli alle frontiere. Una decisione che mette in dubbio gli accordi di Schengen, che è uno dei trattati, dei pilastri su cui si fonda l'Europa. Come si tutelano i rifugiati con questa decisione? Che ripercussioni ci sono per l'Italia? E Schengen è davvero a rischio? Schengen è effettivamente in pericolo, perché se due paesi, diciamo, proprio tra quelli, no, tradizionalmente anche più liberali, più aperti, come la Svezia e la Danimarca, cominciano a introdurre questa politica, anche se al momento naturalmente solo in modo temporaneo e provvisorio, ma potrebbe avere un effetto domino e potrebbe quindi spingere anche altri stati di seguire questa strada. Questo è effettivamente molto preoccupante. Dal momento che c'è una reazione così a catena, no? È chiaro che poi si i controlli vengono reintrodotti tra la Svezia e la Danimarca. La Danimarca e la Germania, le persone hanno più difficoltà a passare da un paese all'altro. Lo vediamo già adesso anche dall'Austria verso l'Italia, in parte anche dalla Slovenia verso l'Italia. È una cosa abbastanza matematica, no? A meno che ci sia, non sia questa probabilità, che poi i paesi che fin qui, come ha detto anche Alfano ancora, non intendono riintrodurre i controlli alle frontiere interne, probabilmente vedranno un maggior numero di persone che chiedono asilo in questi paesi. Questo, diciamo, l'altra cosa che vorrei aggiungere, questo è che anche non è da escludere che vedremo degli arrivi di nuovo via il Mar Adriatico, no? Per le persone che non riescono più a uscire dalla Croazia, e quindi che cercano eventualmente la via mar, come l'abbiamo vissuto negli anni 90 con gli albanesi, con i profughi bosniaci e altri dell'ex Jugoslavia, che, diciamo, non è più tanto o solamente il canale Sicilia, ma potrebbe anche essere il mar Adriatico, quindi con gli arrivi in quella costa orientale dell'Italia. I controlli alle frontiere, prima di lasciarla, sono un deterrente, secondo lei, all'arrivo di nuove persone, di migranti? Non penso proprio. Abbiamo visto, diciamo, che le persone che effettivamente sono costretti alla fuga da tanti paesi del Medio Oriente, dall'Afghanistan e di alcuni paesi africani, non certamente si lasciano scoraggiare per un controllo alle frontiere, semplicemente non si presentano ai valichi ufficiali di frontiera, ma entrano per altre vie, no? In altri punti dove questo controllo non c'è. Questo naturalmente comporta maggiore rischio per le persone, maggiore insicurezza in generale, maggiore anche rischio, no? Che persone che sfuggono di alcun controllo possano entrare, e quindi mi sembra una misura assolutamente fuorviante che non avrà certamente l'effetto eventualmente desiderato di contenere o diminuire il numero di persone che arrivano perché sono in fuga. Quindi, diciamo, anche i responsabili politici lo sanno che non avrà alcun effetto, alcun senso per raggiungere questi obiettivi. E quindi qual è la spiegazione? La spiegazione è semplicemente di, per dirlo drasticamente, di vendere fumo e di raccontare agli elettori qualcosa, no? Che per il cittadino può, adesso chiudiamo le frontiere, facciamo maggiori controlli, eccetera, però che appunto ha un effetto eventualmente di trovare consensi in una certa parte della popolazione, però non ha alcun deterrente per le persone che sono in ricerca disperata di avere protezione, e molto meno, diciamo, è un deterrente per atti terroristici. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Indovina chi viene a cena termina qui. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 23, sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. Da Valentina Furlanetto è tutto. Buona serata. Ciao, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory.